24, i gialli della storia. Agiscono dietro le quinte, in ogni parte del mondo, 24 ore su 24. Studiano l'opinione pubblica, influenzano gli elettori, manipolano i media, fabbricano pubblicità per la politica. Hanno un solo obiettivo, portare il loro candidato al potere e tenercelo. Li chiamano Spin Doctors. Ma chi sono gli Spin Doctors? Quanto contano nelle campagne elettorali e qual è esattamente il loro lavoro? Raccogliere dati, analizzare sondaggi, interpretare le opinioni del popolo, degli elettori e trasformare tutto questo in carte vincenti per i loro candidati. Visti come mercanti nel tempio del santuario della politica, in realtà sanno bene anche loro che devono coniugare queste intuizioni anche pubblicitarie con la forza di un programma coerente, fatto di soluzioni e di valori. È il nuovo modo di fare politica, un modo che anche in Italia si è imposto dalla primavera del 94, ma che in America si è sperimentato da molto tempo prima. ...1944... Un filmato commissionato dal governo americano esalta l'ideale democratico. È il popolo che decide. In realtà non è mai stato così. Sin dall'alba della democrazia c'è sempre stato qualcuno che dietro le quinte, magari in modo ingenuo, ha cercato di influenzare gli elettori. Tutto inizia quando un giovane intellettuale della vecchia Europa va a vivere a New York. Il suo nome è Edward Bernays. Bernays si pose una domanda. Come applicare all'opinione pubblica americana quello che lui definiva il concetto del consenso? Edward Bernays è il primo spin doctor dell'età moderna, il più influente della sua epoca. Nel 1917 l'America entra nella Prima Guerra Mondiale. Divenuto consulente del Comitato per l'Informazione Pubblica creato dalla Casa Bianca, Bernays conia uno slogan che passerà alla storia: un mondo sicuro per la democrazia. A guerra finita, il presidente americano Woodrow Wilson parte per Versailles, dove i vincitori devono disegnare la nuova Europa. L'arrivo di Wilson a Parigi è un evento mediatico trionfale. A organizzarlo è stato Bernays, che ricorda quel giorno. The day of his coming, my maid came to me in the morning and asked whether... Quella mattina, la mia cameriera mi chiese il pomeriggio libero. Le chiesi perché e lei mi disse: voglio vedere i benefattori dell'umanità. A Versailles, Bernays ha la prova tangibile del proprio potere. I leader dei nuovi stati europei gli chiedono di pubblicizzare il loro ingresso sulla scena politica mondiale. Sono nate le cosiddette pubbliche relazioni, un modo come un altro, forse più elegante, per chiamare la propaganda. Negli anni 50 diventerà materia di studio nelle università. Eppure da principio a reclutare Bernays e i suoi emuli sono le imprese e i governi. I singoli politici, invece, sono più scettici e diffidenti. Ma poi anche questo cambia. La figura dei consulenti politici diventa una realtà, ma l'esplosione di questa nuova professione si ha alla fine degli anni 50 con la diffusione di un nuovo mezzo tecnico che cambierà completamente i giochi. È in televisione che si vincono le battaglie, come racconta John Napolitan, consulente per le campagne elettorali. Siamo alle elezioni presidenziali del 1960. La televisione fa emergere un nuovo tipo di candidato, quello telegenico. A sfidarsi sono il vicepresidente in carica, Richard Nixon, e il candidato democratico, John Kennedy. A far decidere gli elettori, si scoprirà, è appunto la televisione. Per la campagna del 1960, in John Kennedy avevamo uno dei migliori candidati di tutti i tempi. Kennedy era bello, si esprimeva bene ed aveva carisma. Una domenica mattina, tre settimane prima delle elezioni, andai a vedere gli spot televisivi realizzati per Kennedy. L'agenzia di pubblicità si era limitata a riprenderlo mentre faceva i suoi discorsi. Quando si fa un discorso, si parla anche a persone lontanissime. In televisione, invece, bisogna parlare come a qualcuno che si trovi a un metro di distanza. Insomma, è completamente diverso. 26 settembre 1960. Il dibattito televisivo Kennedy-Nixon segna una svolta nella campagna. Per la prima volta nella storia, 70 milioni di elettori assistono in diretta a un dibattito elettorale. E il contrasto tra i due candidati è straordinario. Nixon accumula un errore sull'altro. La camicia gli sta troppo larga, ha la barba lunga, ma rifiuta di farsi truccare. Kennedy, al contrario, di ritorno dalla California, dove ha fatto la campagna all'inizio di settembre, appare disteso e sicuro di sé. In quel dibattito è successa una cosa straordinaria. Quelli che lo hanno visto in studio pensavano tutti che avrebbe vinto Nixon, mentre quelli che l'hanno seguito in televisione pensavano che avrebbe vinto Kennedy. A fare la differenza saranno proprio i telespettatori. Il 6% degli elettori decide dopo quel dibattito televisivo. In una elezione sul filo di lana è una percentuale decisiva. La vittoria di Kennedy viene studiata molto attentamente non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa. Come John Napolitan, anche Michel Bongrand nel vecchio continente è un pioniere. Nel 1965, per la prima volta, i francesi eleggeranno il presidente a suffragio universale. Per Bongrand è l'occasione per inventare uno stile di campagna elettorale alla francese. Bongrand si propone allo staff di De Gaulle, che però rifiuta la collaborazione. Bongrand sta per abbandonare tutto quando viene avvicinato da alcuni uomini dello staff che lo invitano a lavorare per un candidato qualsiasi, in modo da poter studiare i suoi metodi. Bongrand si occupa allora della campagna elettorale di Jean Le Canuet, uno sconosciuto candidato del centrodestra che si prevede otterrà 800.000 voti. Ma grazie a una campagna di tipo americana, Le Canuet otterrà 4 milioni di voti, costringendo De Gaulle al ballottaggio. È un successo. Ma intanto negli Stati Uniti sono ancora un passo avanti e il nuovo guru della comunicazione è Tony Schwartz, che per la campagna presidenziale tra Goldwater e Johnson nel 64 inventa la prima pubblicità negativa. Goldwater è un estremista e in più occasioni ha dichiarato l'intenzione di usare la bomba atomica per la guerra del Vietnam. La paura sarà l'arma vincente di quella campagna presidenziale. Ancora John Napolitan. L'emozione. È questo quello che conta, quello che scatta nella testa della gente. Non c'era bisogno di fornire i dati, bastava solo far scattare le emozioni. Sapevano tutti che Goldwater era favorevole all'uso tattico della bomba atomica in Vietnam. Non c'era bisogno di ripeterlo. Tony era bravissimo nell'usare i media per far leva sul subconscio della gente. Goldwater viene sconfitto, ma i repubblicani hanno imparato la lezione di Schwartz. 1968, Richard Nixon si ricandida alla Casa Bianca. Per i democratici è un avversario temibile. E stavolta Nixon affida la propria immagine ai migliori spin doctors. I democratici sono vulnerabili e lo staff di Nixon lo sa. Il bersaglio è persino troppo facile, la guerra in Vietnam e la protesta che dilaga negli Stati Uniti. Il rivale di Nixon, Hubert Humphrey, è in cattive acque. È il vicepresidente in carica, ma su di lui pesano le ombre della guerra in Vietnam. Peggio ancora, Humphrey viene designato come candidato ufficiale dei democratici durante la convention più violenta nella storia degli Stati Uniti. Nei giorni dei lavori, migliaia di giovani che manifestano contro la guerra vengono caricati con violenza dalla polizia. Alla fine della convention, l'immagine di Humphrey è a pezzi. Il candidato, allora, chiama in soccorso Joe Napolitan. C'era il caos totale. La convention si chiuse di sabato e il lunedì successivo era il Labor Day, che per tradizione segna in America l'inizio delle campagne elettorali. Non avevamo niente, né pubblicità alla televisione, né autoadesivi, niente. E ci restavano solo 9 settimane di campagna. Napolitan trova un'idea nuova, un documentario di 30 minuti, un ritratto del candidato Humphrey. Abbiamo vinto quella guerra. Non abbiamo vinto le elezioni, ma abbiamo vinto la guerra televisiva. Avessimo avuto una settimana in più, Humphrey avrebbe vinto. Intanto una nuova rivoluzione è alle porte. Stavolta non c'entra né la televisione né la pubblicità. Si tratta di capire cosa capita nella testa degli elettori. Fino a questo momento, per analizzare l'efficacia di una campagna, gli uomini politici e i loro staff hanno pressoché tirato ad indovinare. Poi, nel 1969, due studenti di Harvard creano un piccolo istituto di sondaggi. Ero appena arrivato ad Harvard. In occasione di un dibattito, il mio compagno di stanza ha incontrato un altro giovane che si chiamava Pat Cadell. Abbiamo parlato di politica, delle elezioni. E circa un anno dopo abbiamo creato una nostra società e abbiamo cominciato a cercare clienti, a partire dai politici che venivano a fare i loro discorsi all'Istituto Kennedy per le scienze politiche. 1972. Ancora prima di laurearsi ad Harvard, Gorman e Cadell sono già tempestati dalle richieste del capo analista del candidato democratico alle elezioni presidenziali. Gorman e Cadell vedono lungo. Intuendo le potenzialità dell'informatica, sanno di poter realizzare sondaggi veloci, economici e mirati, anche per i politici più squattrinati. All'università Gorman e Cadell hanno accesso al computer più grande del mondo e per di più, dato che sono studenti, del tutto gratuitamente. Ancora una volta, gli spin doctors americani sono un passo avanti rispetto ai colleghi europei. Sanno formulare le domande, ma soprattutto sanno interpretare le risposte per i loro candidati, che si trovano così a disporre di una propria unità informativa. Sondaggi e strategie saranno da quel momento più importanti dei concetti politici. Gli spin doctor saranno sempre gli artefici di vittorie eclatanti, ma dietro l'angolo è nascosta anche la possibilità dell'errore. Nel 1976 un oscuro governatore di uno stato del sud decide di candidarsi alla Casa Bianca. Il suo nome è Jimmy Carter. Sulla carta è un candidato senza alcuna chance. Carter ha un sorriso simpatico e un aspetto bonario. Sembra un candidato anonimo, eppure ha sempre una lunghezza di vantaggio sui suoi avversari. Il suo segreto, i pionieri del sondaggio politico, John Gorman e Pat Cadell, che si sono insediati nel suo quartier generale di Atlanta, in Georgia. È una carta vincente che solo lui possiede. Il 2 novembre 1976, Carter batte Gerald Ford nella corsa alla presidenza americana. Ma appena tre anni dopo, Carter scoprirà che non bisogna seguire ciecamente neanche il migliore degli spin doctors. Nella primavera del 1979, Cadell e Gorman svolgono uno studio per la Casa Bianca. Quel sondaggio cambierà il destino di Jimmy Carter e dell'America. Una delle domande riguardava l'ottimismo e il pessimismo. La persona che rilevava i dati ha invertito le due colonne di cifre, evidenziando così un aumento artificioso del pessimismo negli Stati Uniti. Secondo Cadell, di fronte a questo malessere diffuso, il presidente deve far sentire la sua voce. Su sua insistenza, Jimmy Carter accetta di parlare alla nazione. La Casa Bianca annuncia che il presidente parlerà sulla crisi energetica. Per Carter sarà un suicidio politico in diretta. Il candidato che sfida Carter è ancora più bravo di lui nel gioco dello spin doctoring. Nel 1980 arriva Reagan, con il suo ottimismo, la sua aria da leader e il suo dinamismo. Esattamente le qualità che gli americani cercavano. C'erano i diplomatici americani tenuti in ostaggio in Iran, l'Unione Sovietica che invadeva l'Afghanistan. Eppure l'America non faceva niente. Anzi, Carter diceva che non c'era niente da fare. Reagan era il leader perfetto. Lui diceva, non è vero, possiamo agire, possiamo fare meglio perché noi siamo americani. Dopo Reagan, tutte le performance politiche verranno messe in scena come in un film di Hollywood. E come a Hollywood, per le scene di massa, si utilizzeranno comparse da spostare dove necessario. Alla fine degli anni Ottanta, dalla politica è sparita ogni traccia di dilettantismo. Analisti, pubblicitari, consulenti d'immagine. A contribuire al risultato finale sono loro, gli Spin Doctors. E questo nuovo modo di intendere la politica entra prepotentemente anche in Europa. Il presidente Mitterrand è il primo che accetta di stare al gioco. Del resto, non ha scelta. Dopo 3 anni all'Eliseo, la sua popolarità è crollata al 25%. Per salvare la presidenza, Mitterrand deve ricorrere a coloro che avevano costruito la sua vittoria alle elezioni. François Mitterrand, all'oscuro dei media e del suo stesso partito, istituisce un'unità apposita per riconquistare il favore dell'opinione pubblica. Ci rendemmo conto che Mitterrand era percepito un po' come un vecchio. E questo già nel 1984, cioè all'inizio del suo primo settennato. Da principio, perciò, abbiamo pensato a modificare la sua immagine, trasformando Mitterrand da uomo vecchio a uomo saggio. Poi abbiamo lavorato per ringiovanire la sua amministrazione. Avevamo bisogno di un primo ministro giovane, tecnologico, che fosse un bravo amministratore. Gli abbiamo proposto una specie di identikit, ed ecco che Fabius venne nominato primo ministro. I suoi consulenti hanno visto giusto. La nomina di Laurent Fabius fa risalire Mitterrand nei sondaggi. Ora Mitterrand può aspirare ad un secondo mandato. E quelle elezioni Mitterrand le vince battendo nettamente Chirac. Ma che cosa succede nel resto d'Europa? Con la caduta del comunismo, insieme al fast food in Europa dell'Est, arrivano anche le elezioni democratiche. Di là dalla vecchia cortina di ferro, i nuovi politici imparano subito la prima regola della democrazia. Per vincere, bisogna sapersi vendere. Nel 1995, in Polonia, è il capo storico di Solidarność, Lech Wałęsa, a impararlo duramente a sue spese. Kaniewski, un giovane polacco di 35 anni, venne a trovarmi a Parigi e mi disse: «Sono polacco e ho 3 difetti. Il primo, sono molto giovane. E io, è sicuro che sia un difetto?» E lui: «Sì, perché voglio candidarmi alla presidenza e nel mio paese, a 35 anni, non si può diventare presidente. Ma ho un secondo difetto. Sono stato ministro dello sport con Jaruzelski, cioè nell'ultimo governo comunista della Polonia. Ma ora intendo presentarmi di nuovo e battere i comunisti. E ho un terzo difetto, il peggiore di tutti. Sono ateo. Mentre il 90% dei polacchi è cattolico. Ebbene, vuole fare la mia campagna?» Gli ho risposto che non mi era mai capitata una sfida simile e che accettavo. Jacques Seguela propone a Kaniewski di organizzare comizi e di accettare tutte le interviste. Seguela ne reinventa l'immagine, trasformando quei difetti in qualità. È giovane e ateo, quindi moderno. Non è più comunista, quindi riformerà il paese. Le nuove democrazie, la sconfitta di una leggenda vivente come Lech Wałęsa, è anche una straordinaria pubblicità per il marketing politico. Ed è un grave errore sottovalutare il potere degli spin doctors. Russia 1996. Boris Yeltsin, il presidente uscente, lascia dietro di sé le macerie della crisi economica. Inutile, dunque, affidarsi agli spin doctors. 6 mesi prima delle elezioni, l'indice di popolarità di Boris Yeltsin è al 5%. Per tutti, ormai, è un politico finito. Ma nessuno ha fatto i conti con l'esercito dei suoi spin doctors. Per i russi la domanda non è meglio questo o quel candidato, ma voglio il ritorno del comunismo oppure no? Yeltsin, insomma, deve far leva su questo, sulla paura del comunismo. Da qui la sua prima decisione. Egli non presenterà alcun programma. Anziché perdere tempo con un programma, lo staff di Yeltsin prepara un viaggio in tutto il paese. Ogni tappa è messa in scena per sedurre le telecamere. Eppure, nonostante l'impegno profuso, Yeltsin nei sondaggi non riesce a decollare. Gli spin doctors del presidente russo a quel punto hanno un'idea ben poco ortodossa. Da 18 mesi ormai, Yeltsin combatte una guerra spietata contro la Cecenia, che ha proclamato la propria indipendenza. Intere città e villaggi sono stati rasi al suolo e migliaia di civili sono rimasti uccisi, ma l'Armata Rossa segna il passo. Gli ultimi sondaggi sono incontrovertibili. I russi vogliono la fine di questa guerra non dichiarata. Gli spin doctors hanno un colpo di genio: promettere la pace. 4 luglio 1996. Boris Yeltsin viene rieletto presidente della Russia con il 54% dei voti. Negli anni 90 in Inghilterra, il partito laburista e il suo leader, Neil Kinnock, sono in agonia, reduci da una sconfitta dopo l'altra. L'unico modo per risollevarsi è cambiare tutto, programma e immagine. I sondaggi non lasciano dubbi. Un nuovo programma ha bisogno di un nuovo leader. Il candidato nuovo di zecca è un giovane avvocato, di nome Tony Blair. Tony Blair capisce il trucco. Dimenticare il proprio elettorato classico e concentrarsi sugli elettori di centrodestra. Gli Spin Doctors di Tony Blair elaborano un nuovo messaggio. Curiosamente, è molto vicino alle classiche posizioni dei conservatori. Bisogna colpire senza pietà la criminalità e le sue cause. Abbiamo bisogno di una giustizia penale e di tribunali che puniscano adeguatamente i delinquenti. L'Inghilterra diventa un esempio per la sinistra di tutta Europa. In Germania, Helmut Kohl è al potere da 16 anni. È convinto di essere inamovibile e sottovaluta i suoi avversari socialdemocratici. E invece in segreto gli Spin Doctors dell'SPD stanno organizzando una campagna come quella di Tony Blair. E gli indecisi, secondo i sondaggi dei socialdemocratici, sono stanchi di Helmut Kohl e vogliono un uomo nuovo. È quello che l'SPD intende proporre loro. Una campagna modernissima e un candidato nuovo di zecca, Gerhard Schröder. Nel loro quartier generale a Kampa, lontano dai burocrati del partito, gli Spin Doctors mettono a punto il piano per un'offensiva senza precedenti. Il bersaglio diventa l'età di Helmut Kohl. Come in America, anche gli Spin Doctors di Schröder giocano d'attacco con la pubblicità negativa. I socialdemocratici vincono con il 41%. È il loro miglior risultato da oltre 20 anni. Nelle campagne elettorali, il marketing ha sostituito la politica. È il trionfo degli Spin Doctors. Ma negli Stati Uniti esplode una rivoluzione tecnologica che sarà per loro una nuova sfida e che gli permetterà di tenere i media in ostaggio. I nuovi canali trasmettono 24 ore su 24, dunque hanno un bisogno continuo di materiale. Per Joe Lockhart, consulente di Clinton, è il momento di reinventare la comunicazione politica. Chi sta al governo deve dettare il palinsesto. La domanda che si deve porre è come posso riempire gli spazi. Bisogna sapere che la tale cosa va detta alle 9 in punto. Così, tra le 9 e mezzogiorno, le televisioni non parleranno d'altro e magari forniranno solo il nostro punto di vista. Ma a mezzogiorno tutto sarà già superato e quindi, non appena parte il telegiornale di mezzogiorno, dobbiamo trovare subito qualche altra cosa da dire. Non ci si può mai fermare. Per gli Spin Doctor è il momento di governare totalmente la comunicazione, anche se a volte è necessario inventare le notizie di sana pianta. Come nel caso della guerra contro Saddam Hussein e le sue armi di distruzione di massa per giustificare l'attacco preventivo, ma a volte anche le bugie meglio architettate vengono smascherate e possono diventare un boomerang. E la conseguenza dell'ultima sfida che gli Spin Doctor devono affrontare, quella che vuole una diffusione sempre più capillare delle notizie. Notizie che corrono nella rete, che possono raggiungere chiunque e modificare il consenso. Sarà l'uso diffuso e popolare di internet a rappresentare l'ultima asticella da superare.